me. Sceriffo! Cos'è, sceriffo? Sono tornato in AM. Chi è questo? Non lo capisco. Ciao Giulio, buonasera, ma chi è? Non lo so, un po' in AM, un po' in FM, non lo so, non ho capito, non mi sanno arrivare chiaro. Ciao Flavio. Ciao Giulio, buonasera. Avanti, chi vuole entrare nel canale 10? Che sono sempre io, deve essere che ho toccato qualche tasto e sono andato in FM. Ok, la stazione sceriffo, vi super saluto tutte e due, avanti. Ma stai modulando da Porto Torres, ma Antonio Sceriffo sì. Eia, sto modulando da Porto Torres. Sì, Antonio Sceriffo, vero? Ehi Antonio, sono io Antonio. E io chi sono? Non mi hai riconosciuto. Barbiero sei tu. A voi 40 anni. Ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato. Sempre io so. Scusa, Pasquale, tu sei? Io so, e allora chi è? Scusate, tanto tempo che non lo sento, caspita. Com'è da questa stazione? Com'è la radio? Chiaro? Io sono a Sassari, fuori Sassari. Però arrivi Santiago 9 qua, arrivi benissimo alla grande Antonio, non c'è problema, adesso ti passo Giulio Dollaro che trasmette dall'input, vediamo se ti sente meglio lui, vai Giulio. Ok, ciao, sceriffo. Sì, ti sento bene, non c'è problema, avanti sceriffo. Ok, anche a te ti sento benissimo, tranquillo, ok. Vabbò, io aspetto perché sto facendo cose, vi saluto tutte e due, poi rientrerò più tardi. Ok, ciao a tutti. Ciao Anto, ciao, piacere averti ascoltato dopo una vita. Ci sentiamo, vai Giulio. Ok, ciao Antonio, Filippo. Alle prossime. Infatti, poc'anzi, sono cattivo, non vera. Infatti, era per quello che non sentivo bene, perché era in FM. E cui, poi sono passato io in FM e non c'era più lui. Ci siamo persi, insomma, dai. Un vecchio CB, più grande di me anche, è un vecchio CB dell'era mia, di Porto Torres, e siamo nati praticamente nella stessa strada, capito Antonio, sceriffo, vecchio CB, vecchio, tantissimo vecchio, forse siamo i primi che abbiamo iniziato a Porto Torres assieme a Ernesto, a Gavino Balzano, Corsaro Nero, insomma quelli vecchi che c'erano, Primula, Alfetta, insomma quelli lì, Delfino Bianco. Va bene, allora Giulio, tutto bene? Ho visto il video, solo che qua arriva sempre in ritardo ed è un casino a guardare le cose. Come mai arriva così in ritardo il tuo video? Cioè il video che ti ho mandato, come mai? Ma hai un problema del telefonino? No, abbiamo un problema di ponte radio, abbiamo un problema di ripetitore, capito? Infatti abbiamo fatto la richiesta se è possibile avere un ripetitore gestibile, GSM da noi. Adesso ci deve avere una risposta la team, la telecola e la team. Ah, ho capito, sì, beh, allora, se il posto non è servito bene, col segnale, è chiaro. Considerando che era carbonante ti arrivavano 9.17, 9.18, non è che abbiamo perso molto, va. Chiaro, va bene, l'importante è ci ascoltiamo. Ma che te l'ho detto da tanto tempo, dal primo momento che ti sei trasferito, te l'avevo detto. Hai fatto qualcosa perché giustamente ci sono diversi chilometri in più di risalta. Allora il segnale è fortissimo, no? La radio poi non ne parliamo nemmeno, la radio è rimasta uguale, stare qua come prima, non c'è nessunissima differenza, per cui va bene. Alla grande, ma anch'io vi ascolto tutti bene, tu hai perso qualche cosettina anche tu, ma diciamo poca roba, anche Roberto qualche cosetta, Antonello, un po' tutti, ma i segnali sono tutti oltre il 9-10, tutti, capito, quindi non mi posso lamentare, dai, per come è messa l'antenna e per dove sono io già va più che bene, giusto per salutarvi e fare due chiacchiere. Così va benissimo, e a voi per questo cosa ce ne frega, poi arrivare 9.20 o 9.30, non ce ne frega niente, è interessante che ci sentiamo, poi il resto va spazi di propagazione, per cui per quale motivo? Che motivo c'è di dare più potenza? Non c'è proprio nessun motivo, guarda. No, vabbè, così la sfrutti poco, intanto hai visto i picchi di modulazione che c'ha quella radio, da paura, io l'ho provata in tutti i modi, in tutti. FM, AM, SSB, USB, da tutte le parti, ed è perfetta, veramente, viaggia alla grande. Viaggia veramente bene, anche un'ottima ricezione, va benissimo, tienila così e vedrai che non sbagli giù, la potenza va bene. E tu sei 9.15, a casa Carbonati mi arrivavi quasi 9.20, 9.18, quindi anche tu hai perso pochissimo e va più che bene. Appunto, poi io non ho mai avuto problemi di segnare, che se ne frega, per me 9.15 o Santiago 9 addirittura va bene lo stesso. Mi sono sentito anche stamattina e c'è un problema che non riesce a risolvere, adesso penso che si consulti con un centro assistenza specializzato per la Kenwood, perché c'è un problema, praticamente ha inserito il filtro, però si sposta di frequenza e quindi deve capire che cos'è, ma non c'è problema, quella è una radio, ti ho detto, io gli ho mandato a fare a tempo perso, purtroppo anche lui è incasinato, è impegnato, è sempre fuori, poi ha aperto un nuovo negozio, quindi insomma mi sono un po' incazzato, perché c'ha la mania di non rispondere, di lasciarti così come imbecilli, però c'è sempre questa scusante che a volte non sta bene, a volte fuori per lavoro, e quindi comunque. Vedo un po' di metterla in mezzo, di farla, se no io ce l'ho sempre davanti, solo che c'è questo problema che non riesco a, neanche con gli strumenti riesco a capire da dove arriva, si sposta di un megahertz, capito, in AM stiamo parlando, per il resto è tutto a posto. Ok, ho capito, vabbè, vediamo solo, ma vedrai che... Radio io l'avevo presa, usata, questa non è quella che avevo prima, 4.30, questa è un'altra, capito? L'altra l'avevo venduta, l'avevo data, poi ne ho preso un'altra da mettere a posto, e in ottime condizioni, un po' insomma vecchiotta, gli ha fatto un bel po' di interventi, un po' di cose, gli ha inserito il filtro della M, però c'ha questo problema e si sposta di un megahertz, ed è tanto, capito? È tanto, perlomeno. Quando ha riscontrato lui, anziché essere al 0,75, si è al 0,74, quindi è tanto. Mentre invece in banda laterale è allineatissimo, in FM va benissimo, solo la M. Quindi lui pensa che sia qualche oscillatore che sia andato a farsi fotte. Va bene, siccome ci aveva delle fiere, aveva degli impegni di lavoro molto grossi, ci siamo sentiti, mi ha detto adesso questa settimana vedo di buttarmi sopra e di chiuderla, così te la mando. Vabbè, già non sono a piedi e c'ho anche l'altra, non è un problema, però sto modulando sempre col Galaxy. Giulio! Un attimo, sì, perché sono qua, ma non c'è problema, ma già solo qua il problema, no? Questo lo rispetto ancora una volta. C'è le pastiglie, guarda, alla volte c'è le riparazioni e poi quando hai trovato il problema, c'è da accidente a te, capito, ma quando mai non ci potevo arrivare prima, così parlano, è giusto che sia così. Qualcuno mi ha chiamato avanti? Giulio, vengo con me, se non capire chi sei, avanti l'amico, chi sei? Sbarbiere, dimmelo anche tu se mi senti più bene. Ho cambiato il baracchino e ho cambiato il microfono. Vedete un po' come sto uscendo. Adesso stai andando bene, Antonio, lo fai di tutto strappato. Dovevo abbassare allora, senz'altro, tutto strappato. Vamo! Ehi, allora adesso va bene, non aumentare il microfono, perché se lo esci tutto strappato sembra in FM. Vai, Giulio. Ok, infatti non riuscivo a capire chi era. Adesso sì, adesso già va bene così. Antonio, va bene così, dai, lascialo così. Bene, Claudio l'ha confermato, per cui non era, poi ho detto ma che abbia qualche problema io, ho pensato, invece no, Claudio ha confermato quello che stavo pensando io, per cui va bene. Comunque adesso vai bene, tu avanti. Tu deve essere che sta cambiando. Sì, ma me l'ha confermato, ma magari è una stronzata che però mi sta sfuggendo adesso. Poi ti ripeto, l'ho messa da parte perché aveva altri impegni. Adesso dice che la riprenderà e insomma la metterà sotto, vediamo di risolverlo così e tu me la manda. Cazzo, ce l'ha già 2 mesi sta radio, non è un alino. Non so, se l'avevi mandata insieme alla mia, già lo credo. Adesso per fuori tempo, lo so. Lasciamolo fare quest'uomo, dai. Tutti questi problemi che ha in questo momento, ad esempio il trasferimento, più il problema anche purtroppo di salute, allora lasciamolo fare, ma già ci arriva, voglia se ci arriva, fanno tutti così, ci arrivano, lei a voglia era grande, prima o poi vedrai che quando ci sarà il dibattito, lui stesso rimarrà meravigliato, fatto quanto sono stato stupido arrivarci prima a questo problema. È così che ragionano, e lo so perché io ci ho lavorato tanto tempo, c'è anche l'aereo tecnico, quando ero ragazzo, e so appunto il modo di fare che hanno, ma è giusto che sia così, se no uno diventa scemo veramente tutta con l'elettronica, tutte le cose che si devono fare e controllare, e per carità. Si conferma, vabbè, lasciamo fare. Ti ripeto, non è una cosa che mi interessa, fossi stato come prima, capito? Ma adesso non è che mi interessi più di tanto, Giulio, c'ho altre cose da fare, voglio venire d'altura, di fare dei lavori, sto sempre facendo. Adesso domani il fratello di Luca, Stefano, mi porta, con il motocarro mi porta un divanetto che mi tira domani mattina, e poi ne approfitto dal carbonato e mi porto via quelle 2-3 antenne soremate, quei 2-3 tubi, un tappeto, cioè un tappeto persiano grande che mi serve davanti al Caverio, e basta, poi insomma ho finito, la linea di massima abbiamo fatto. Chiaramente quando si fanno questi traslochi c'è sempre un grande affare, lo so, purtroppo è così, prima di accettarsi definitivamente fatto un po' di tempo passa. Comunque ti è sempre rimasta la parte alta della casa, cioè la mansarda, no? Ti è rimasta a codere sempre tua. Sì, adesso è al 50%, però adesso è al 50%. Ah, ho capito, comunque per te è sempre un appoggio che potrebbe servire per depositare delle cose che magari lì possono anche dare fastidio, tra virgolette, e allora ce l'hai, hai anche quella comodità. Sì, c'ho le chiavi del portone di giù, della mansarda, c'ho le chiavi di tutto, non è quello il problema. No, ma me le voglio portare qua le cose, perché se mi servono poi non devo stare fra i piedi, capito? Ad esempio, l'altro giorno mi serviva un tubo perché l'ho comprato anche la saldatrice, e ho fatto le T per con i tubi zingati che avevo per la qualificazione per i cosi da stendere, no? Per i pali da stendere. E mi mancavano 2 tubi, sono dovuto andare là, mi porto tutto qui, già ne ho a posto, e ho 120 metri quadri di casa, oh Giulio, con tutto in giro, 2 metri di larghezza per non ti dico quanto di lunghezza di Caveri, ho vuoto, quindi vieni il logo. Ok, vai, beh, certo. Cazzi, i soldi per comprare la saldatrice qua. Ma non devi dire se ti serviva la saldatrice, che io ce l'ho da anni, sempre da una parte in falegnameria, siamo distanti, capite? Tocca stare va e vieni. Neanche il mio Massimiliano, prima di comprarmi il cespugliatore, te lo do io, ma non ti serve, scendi e te lo prendi. Ma non fa, capito? Non fa, me lo so comprato, rasa erba, il cespugliatore, tosa siepi, forbici, zappe, zappette, di tutto l'ho comprato, carriola, pale, tutto. Mi sono fatto tutta l'attrezzatura del giardinaggio. La sanatrice mi serve perché devi fare una riparazione, mi sono saldato due tubi che erano staccati del cancello, perché il cancello c'era tanti anni oramai, e quindi l'ho rifatto tutto a nuovo, l'ho sistemato, riverniciato con l'aiuto del mio vicino, che lui è bravo, capito? E l'attrezzatura ci vuole, non è che puoi stare sempre a chiedere agli altri, sto qua. Comunque ti ringrazio. Ma per una ma secondo te fra me e te ci sarebbero tanti problemi? Ma vai, ma dai, se vuoi spendere magari 180 o 200 euro così, vabbè, tu mi dirai, ce l'ho, è mia e se no la quartiere per niente, vabbè, comunque, è la mia che sta vedendo, vabbè, anch'io ho fatto tanti lavori, non è che l'ho fatto, premesso che non so saldare, sia ben chiaro, io saldo e attacca, perché attacca, però poi, scusa, la devo uccidere. Succede che io la lavoro, la saldatura, la lavoro con la sbadigliatrice perché giustamente non è il mio lavoro, non sono bravo, però a tornare già saldo e io faccio così qua. Ma ti posso dire che anch'io non sono un grande saldatore, cosettine piccole già le so fare, capito? Già le so fare, cioè, avevo due tubi che si erano attaccati i dadi del telescopio, come li sono risaldati, molati. Queste cose così, tanto sono qua, cosa faccio? Mi ho preparato le tee per farli da stendere, adesso domani non lo so perché c'ho gente domenica, quindi devo preparare un po' di roba, capito? Domenica c'è un po' di gente, quindi se è bella giornata arrostiamo, se no stiamo vento, così la biglielucci, però oramai gli ho invitati, mie sorelle, l'Alghero, vengono, mio fratello, il portatore, eccetera. Se no poi lunedì gli faccio i buchi, getto metto i cosi, li faccio asciugare, poi attacco i cavi per stendere, capito? Tutto qua. No, non so, non ce n'è problema Giulio, grazie lo stesso, ma già sono cose che mi servono, quindi è meglio comprarle, dai. Sì, va bene, quello sì, ma dice considerato che è una cosa che non si usa molto di frequente, insomma, vabbè, dai, comunque ce l'hai ormai, non te ne stai a parlare, ce l'hai, è roba tua e ce l'hai a tua a convenienza per quando ti serve, va bene così. Ti prepari due cavalletti, vi vendono quei cavalletti di legno anche, vari costanti 15 euro o 2, anche nei cosi di come li vendono, nei, come si chiama, nei fai da te, dai, forse anche da qui come ci sono, una miseria, hanno correnza, li apri perché si chiudono, devi risaldare un tubo, per l'antenna, ma qualsiasi altra cosa, apri i cavalletti e poi li ritigli e non ti danno nessuna occupazione di spazio perché si chiudono, eccetera, eccetera. Qua. Sì, ma infatti ho già presi quelli, ce li ho, i cavalletti li ho presi subito perché c'è un pannello grande, lo appoggio per fare lavori, poi giù nel cantiere, perché è rimasto ancora il cantiere, c'è un tavolo in ferro con la morsa attaccata, quindi a volte scendo giù a fare delle cose, qua Giulio, ti posso garantire che non manca nulla, già va bene tutto. Ok, qua, io ce li avevo e devo darti a quello di a fianco a me, quello che vende gli animali, e l'ho dato a te, perché mi aveva chiesto in prestito, ma se me lo dai, è certo che te lo, quando vuoi, maestro, te ne esistisco, no, tienitene lì, fregatene, vuol dire se vuole a me te li chiedo io, così ho fatto, qua. Così mi sono liberato anche di una cosetta, che poi fastidio non me l'hanno, perché li avevo fatti io quelli con la cerniera che si chiudono, li appoggi al muro e cosa ti prendo? 10 cm di spazio, ma vabbè, comunque adesso li ho dati a Davide e Ciccia, poi se ce li ha portati in campagna lui, questo non lo so, però io glielo ho dati e quelli fino a poco tempo fa ce l'aveva in negozio. Figurati, troppa gamba. Vabbè, dai, comunque andiamo bene lo stesso. Ok, vai. Vabbè, tornando al discorso frequenza, poca gente sta entrando, vabbè che questi giorni c'è tanto di quel rumore con questo accidentaccio della bene, ma altri momenti che tutti uno sull'altro, insomma, un fracasso che non finisce mai. Sì, siamo ne sono accorto, sì, qua picchia forte la popolazione, io a volte sto nei canali alti ad ascoltare, ti dico, ho dei segnali allucinanti, più alti ancora di quando ero a Sassari, la verità, forse perché è più aperto, sono un po' più alto come altitudine, i lati sono liberi, c'è la vallata, però evidentemente ci sono aperture micidiali perché c'è il mare, capito? Okay. eccetera, ma bensì col treno, con i mezzi pubblici, eccetera. Noi tutto sommato siamo bene. E lo stesso discorso vale per mia figlia. Mia figlia è sempre in giro, ma tutta la Sardegna, il suo lavoro appunto per quello e chiaramente si deve muovere. Ma è normale, dai, e questo è già importante. Ci possiamo considerare fortunati qua. Così è, infatti. Benvengano queste cose, benvengano queste cose. Comunque, ripeto, io sono contentissimo di quello che ho fatto e allora a tutti di fare, per gli anni che ho, di fare quello che ho fatto io. Altro non posso dire. Beh certo, che sì, ci mancherebbe. Capita. No, nessuno deve essere geloso di una persona che riesce a realizzarsi in quel senso lì. Per cui che problemi ci sono? Milano le persone quando riescono nel loro intento, perché c'è tanto di quel sacrificio, città, praticamente una vita di lavoro, e allora è meglio che uno riesca e che faccia senza nessuna gelosia, a differenza di magari tante persone che sono anche gelose, ma quelle sono persone poco intelligenti per conto mio. Per non dire ignoranti. Ciao Natalia, e cosa devi essere geloso? Ma devi essere geloso di me, io sono un poveraccio come tutti, ho lavorato una vita per crearmi quello che mi è servito per la mia famiglia, altro non ho fatto nella mia vita, quindi di cosa devo essere geloso? Ciao, ciao Natalia, buonasera, riprendi un attimo che mi sta chiamando mia moglie. Prego, un attimo il break. Ciao Giulio, ciao Claudio, facciamo venire avanti il break, Giulio, avanti il break. Positivo, giusto per i saluti e sempre per se funziona bene questa radio. Ciao Giulio, ciao Natalino, sentito di sfuggita così a Claudio, sono entrato per salutarvi, dai. Ciao Massimiliano, ben entrato, dai, è un piacere ascoltarti. Ciao Natalino, sì, Claudio si è allontanato un attimino, ma rientra subito sicuramente. Riprendi ancora Massimiliano. Sì, Giulio, dai, vi ho sentito, ti dicevo. Adesso passo un attimino, perché tu ben sai che quando c'è un po' di propagazione a me mi piace stare un po' lì a fare casino alle 45. Beh, se vede, ognuno è padronissimo di fare quello che vuole, chi non vuole crepe, cosa vuoi che ti dica? Io anche ieri io ti ho ascoltato ieri, perché cosa credi che non ti ho ascoltato? Ti ho ascoltato con piacere anche. E ho visto che riuscivo a bombardare tutta la grande, e questo è tutta merito tuo, e soprattutto perché ti sei attrezzato in una certa maniera, va benissimo così. E se uno poi non lo vuole sentire, cambia canale, che problemi ci sono? Ci mancherebbe altro, vuole vedere, capita. Io attrezzatura non ne ho, e quando non riesco a collegarmi, per me è già un grande diciamo evento, tutto sommato. Però d'altronde, se uno non è interessato, poi lascia fare a chi vuole fare, basta, tutto lì. Natalino, avanti Natalino. Sì, cappa. E perché io attrezzatura ne ho? E tu mi intendi negando il giambo? Non c'è problema. Quando c'è propagazione bastano pochi watt e parli lo stesso. Arrivano dei segnali paurosi qua, molte volte, e con tutto che c'ho l'antenna bassa, Massimiliano. Ciao Massimi, buonasera, 9:10 Radio 5 qua, ottimo per la truppa. Ciao Natalie, ben sentito, ciao Claudio. Solo radio qua, senza niente, senza aiuti, senza nulla. Sì, no Giulia, c'era Rocco Aquila Solitaria, che diciamo che è un nonno della frequenza, ecco, perché c'ha quasi 80 anni. E poi c'era Roberto Locomotiva, che abita lì vicino a lui, a Taranto. Era una vita che non lo sentivo, ci abbiamo fatto un bel QSO anche con l'eco, però diciamo che ci abbiamo fatto un piccolo QSO, dai. Va bene, io sto andando con il Galaxy Saturn Echo, che era 2 mesi spento. Mi dite se sta andando tutto bene? Per me è una grande, Massimiliano, per me è una grande. E devo dire che anch'io ieri, nonostante che sono rimasto di ascoltarti, mi sono anche divertito, perché, ripeto, ancora una volta, a me quando si fanno i collegamenti in ordine e con ordine, come hai fatto tu ieri, andava benissimo. Quando sento invece tu che accavallavi, allora mi sposto, perché tanto inutile, non capisco piedi che li hai proprio massacrati, li hai, perché ti rispondevano al primo tentativo di chiamata, per cui andava benissimo così. Infatti avevo fatto anche un video, avevo fatto, che l'avevo mandato a Claudio per fargli vedere il suo segnale, a conferma di quello che io ho sempre detto, lui arrivava qua a 9.10 e 9.10 abbondante, appena appena abbondante, gli ho mandato il video proprio per confermarglielo, perché non voleva, vabbè, lui non, so benissimo che, non, che si fida di me, però sai com'è, alle volte è meglio essere sempre più chiari, più precisi possibile. Avanti Claudio. Sì, ma anche a Massimiliano arriva 9.10. Chiaramente con i baracchini il luce al garage come il mio ed è molto preciso, mentre invece magari col baracchino perdo qualche segnale, come lo perdete un po' tutti quando uso il baracchino più piccolo, diciamo, questo è perfetto. Ottimo Massimiliano, radio 5 perfetta, segnale 9.10, alla grande. Avanti Natali. Io sto facendo un 2,5 qua, ma già mi faccio sentire lo stesso. Guarda, io Natali, qua arrivi Santiago 6, però c'hai una radio che è spettacolare. Ehi, 2,5 posso aumentare, mi non c'ho niente attaccato, sono i watt dell'apparecchio, guarda. Ecco, questi sono i watt dell'apparecchio, guarda un po'. Passi da 6 a 9.5. Sì, vabbè, ma Natalia, quando arrivi un po' per farci due chiacchiere così, vanno bene anche 2 watt, non ce n'è problema, capito? E infatti, cosa c'ha in chivi? Infatti non ho né lineare, nulla, per potermi fare sentire da... Quando c'è propagazione basta questo e avanti. Sì, sì, è vero, è vero. Ma guarda, io la verità, questo Galaxy, cioè, tutti i vati sono chiusi. È stato fatto un piccolo lavoretto da un amico prima di spedirmelo. In poche parole, con 2 watt c'ha picchi quasi di 30. Io lo uso sempre così, non aumento né nulla, quindi mi va bene così, dai, poi ci ascoltiamo tutti, non c'è bisogno. È che quando vai negli altri canali, giustamente lì devi avere un po' di watt, se no non arrivi da nessuna parte, dai. Ok Giulio, per te. Ok Massimiliano, certo, ma arrivi benissimo, la radio pure è spettacolare, va benissimo, problemi non ce ne sono. Quando la radio si usa, anche se uno usa potenza, che problemi ci sono? Interessante che la potenza venga usata con parsimonia, perché no, se poi ci sono quelli che la usano per disturbare o fare, allora non va bene, ma siccome tu non sei uno di quelli, so benissimo che la usi, anche se magari ti sentivo sul canale 14, Santiago 6, 7, ti sentivo, mentre invece negli altri canali non ti sentivo. In 2 canali ti sentivo, quando tu eri sul 45, quando eri bello spinto, però se no non ti sento proprio. Sul canale 14, se ricordo bene, era quello, sì, se ricordo bene, ed era Santiago, sì, una cosa del genere. Infatti ho chiamato, ma non mi risponde. Allora ho capito che tu eri magari in preparazione, stavi facendo collegamenti con una certa spinta e giustamente sono passato lì e mi sono divertito ad ascoltarti, Massimiliano. A me, quando uno si comporta in maniera pulita e tranquilla, no, problemi non ce ne sono, può mettere anche 5.000 watt, che problemi ho? Assolutamente no, figurati. Riprendi, dai, fai girare. Facciamo riprendere più lontano, dai, che è in parcheggio, vai Claudio. Sto guardando un messaggio. Ah ok. No, io invece giù ti volevo dire una cosa. Anche vabbè, chi sta ascoltando non mi interessa. Su quella radio lì, che io vado a fare un po' di casino nel 45, quelli che parlano nel canale 23 li ascolto nel canale 6, Santiago 7. Sì, ma può succedere, può succedere. Perché no? Non c'è problema quello, ma questo non significa assolutamente niente, per carità. Non è che io ad esempio ti ho detto perché mi sto lamentando, no, ma nella maniera più assoluta. Quando devi fare, fai tranquillo e pacifico, perché a me non mi dà nessunissimo fastidio. Per cui ho voluto solamente farti capire quanto poteva essere la tua potenza, dice Giulio, non mi hai capito, quando io parlo con quella radio lì, solo in ascolto, per esempio, che sto solo ascoltando, se io metto nel canale 6, diciamo, cittadino, dai, sui 40 canali, vado sul 6, e c'è gente parlando nel 23, io nel canale 6 li ascolto Santiago 6, capito? No, assolutamente, non sto facendo nessuna polemica, attenzione, sicuramente magari è un po' la radio che c'è un po' di spuri, ecco, non è che sto dicendo niente, capito? Li ascolto proprio benissimo sul 6, li ascolto benissimo, invece loro stanno chiacchierando tranquillamente nel loro canale, ecco, questo volevo dire. Ok, ho capito, ma certo, non c'è da meravigliarsi, i baracchini sono così, è ovvio che un po' di armonica magari può sfuggire da un canale all'altro, perché no? Ma non per questo dobbiamo assolutamente offenderci o arrabbiarci, ma per carità, vada, siamo uomini grandi, non siamo stupidi, tra l'altro siamo persone intelligenti, per cui andiamo avanti in perfetta armonia, ci mancherebbe altro, figurati. Avanti Natali, scusa il passaggio doppio o triplo che ho fatto con Massimiliano, vai Natali. E poi le spurie ce le hanno gli altri se tu li senti, capito? Il baracchino tuo non c'ha nulla. Sono quelli che spingono. Natale, io ti ripeto, io li ascolto proprio chiari, chiari, chiari. E io vabbè, comunque là, non succede niente. Non sono il tipo che va a fare polemiche o quant'altro, ecco. Non mi interessa e non li voglio manco già bene. Infatti, come avete ben notato, io non è che entro tanto, ecco, ogni tanto quando adesso vi ho sentito, ho detto adesso accendo un po' il Galaxy, era un paio di mesi spento, ho detto vediamo un po' se è tutto a posto, vi ho sentito e sono voluto entrare a salutarvi, ecco tutto qua. Avanti, Sparviero senza ali. Attenzione, binario 10, se ascoltate il doppio run, cambio. Io bacio le voci, che già ti ascoltiamo, non siamo sordi. Buonasera, ben sentito. 5-9 più. Vedo che sei in macchina perché c'hai QSB. Ehi, ehi, Massimi, ehi, ehi. No, anch'io mi sono entrato così, ho sentito Giulio e quindi niente. Scusatemi un attimo, volevo rispondere al telefono. Avanti Gianni, buonasera. Buonasera Claudio, buonasera a tutti gli amici, dai, non ho fatto ascolto, sto praticamente attaccando adesso in questo momento, dai. Sono in Girella e niente, volevo vedere se mi ascoltavate. Gianni da Camella. Dove ti trovi già? Sono in questo momento in Viale Dante. Qua sì, Santiago sì, Radio 4. Gianni da Camella. Cava cava, va bene, ciao Luca, Lucrezia Borgia. Gianni Casarella. Ciao Massimilia. Luca Casarella. Gianni Luca Claudio Benivella. Siamo di Benivella. Ciao Lu. Mi sono detto attraverso dal mare. C'era un po' di vento, poi ha calmato, insomma, una giornata un po'. Insomma, siete controllate perché io stavo controllando, mi si è bloccato il telefono. Ma dice domani brutta giornata, piove. Sì, sì. Stanotte. Ammazza ne vai a cazzo ne vuoi cubere un pizzava, vado con i servanti, mi sono rotto le balle cosa. Ehi, ma cuba che cosa, Clat, passi il tempo a tagliare l'erba. No, vabbè, ho sistemato tutto, poi con l'acqua fa un casino nero. No, domani mattina l'ultima mese c'ho appuntamento con tuo fratello, dobbiamo portare giù da Carbonati un divanetto che mi serve qua, una mansarda e poi qualche altro tubo, qualche altra cosa, insomma me la porto qua, adesso c'ho appuntamento alle 8:30 con Stefano. Speriamo che non piova. Aia. E se non vai, pigli un coso, un cespugliatore, con molto di zappatore, poni la benivella sotto, il cavalletto, pensi a pure, taglia l'azzurro. Dissipatore le metto anche. Avanti Giulio, ciao Gianni, mi hanno ascoltato, è più di 9 arrivi, complimenti, vai Giulio. Ok, ciao Gianni, ben entrato, ciao Luca, ben entrato anche a te. Certo che sì, facciamo girare sia anche Natalino, Luca e Gianni anche, lo dico. Avanti Natalino. C'è un cocuoma da quel Luca. Adesso lo faccio parlare da solo, eh? Parla, parla da solo adesso. Vai e parla con Muro. Gianni, in che posizione ti trovi? In questo momento rifornitori P appena più su della GBC. Grosso incidente sulla Brittella, tre ambulanze per portare i feriti. La Brittella dov'è? Quella che porta la Teroce? Cava Cava. Vabbè, oh, Mattia, e un altro ce n'era qua nella strada, più o meno là, la strada dove sono io, un po' più avanti, verso su. Però ieri, va bene, va bene. Complimenti Gianni, arrivi fortissimo, veramente molto molto bene. Avanti Massimiliano. Positivo, positivo, va bene, va bene, ok. No, va bene, anche qua arriva bene. Adesso è aumentato un pochino, sicuramente sta salendo, e quindi tutto roggere. Oh Bianco, per me, dai, vado a farmi la pedivella dopo. Quante parlate in sì ci avete parlato? Sempre Jack lo svento, Gianni, Jack lo svento hai fatto? Sono in macchina, c'è anche QRM qua oggi, dai. Non ho sentito nessuno, scusate ma non l'ho fatto apposta. Cava, riprendi, oh Bulldozer, dimmi come mi ascolti in questo momento, qua sono al quadrato. Adesso ti ascolto, Santiago 9, Radio 5 già. Va bene, va bene. Ma tu come ci ricevi a noi? Bene, sì. Sì, sì, molto bene, sì. A te, a Claudio, anche a come si chiama. Sì, sì, vi ricevo tutti bene, dai. Massimiliano, una Zetter vendi già. Beh, sei da due massi. Sono liscio, eh! Ma sì, già, porta il 920, stai arrivando, arrivi più forte da lì che è la casa tua. E vabbè, ma tu dove sei? Qua vicino? Già, non posso dire dove sono io, ma non sono distante da dove abitavo prima, non ti preoccupare. Ho capito, là, già ho capito più o meno. Già ho visto con la macchina dove ti trovo. Cosa c'è, il navigatore? No, da segnale, me ne accorgo. Vabbè, la fortuna, la sfortuna è già che ho un pochino di dislivello, perché sono 200 metri di livello da ancora più alto da dove ero prima. Però c'ho, dove era a casa c'è una discesina, diciamo, l'hai capito? Sono un po' coperto, ma comunque abbastanza aperto, là, non c'è problema. Ma è zona alta quella, Claudio, no? È più alta di dove eri prima, se ti fidi. È più alta, come livello del livello del mare, sì, sono quasi a 400 metri dal livello del mare, dove ero prima era 280, capito? Però se fossi stato proprio 50 metri leggermente più su, allora erano dopo i forti, ma non mi interessa, l'importante ci sentiamo. Avanti, signor Natalino. Eia, più alto io sono allora. Diciamo che sono di fronte a te, dai. In casa mia sono più alto io, capito? Se tu sei a 400 io normalmente cantuiro 400 spiccioli. Sì, sì, sì, diciamo siamo lì, dove abitavi prima sono di fronte a te io. In pratica io vedo le antenne dell'amico nostro, già hai capito? Già ho capito dove sei, non di nulla. No, non devo dire assolutamente niente, orientativamente comunque sto bene qua. Ok, avanti Giulio. Ok, il più alto sono io, a 130 metri, sotto Sassari sono praticamente, 90 metri sotto Sassari, va benissimo, era grande, claro. Tu magari hai preso qualcosina da questa parte, ma sicuramente l'hai guadagnato dall'altra parte, no? Non ci sono dubbi. Quando riesci a collegare Monassim me lo dici. va bene, claro. Non tutto purtroppo nella vita si può avere, e quello che hai ottenuto è proprio alla grande, ma veramente alla grande. Auguroni. Avanti Massimiliano. Sì, dai, positivo, io stavo aspettando per mi rilanciavate, perché vi saluto, e mi allontano un secondino, devo uscire fuori e poi non so se riprendo. ma se riprendo vado a fare un po' di casino, va? Ok? Vi saluto a tutti, grazie del QSO, buona serata a tutti e ci sentiamo le prossimine. Io vi saluto, ciao ciao. Oh, Massimi, ma ci vediamo domani? Non lo so, non lo so, Claudio, non lo so. Poi magari ci sentiamo per telefono, ok? Vabbè, intanto io sono a casa, se ci sentiamo per telefono, ok. Ciao, buona permanenza, buon tutto, buon divertimento sul 45. Saluta Daniela e un bacio a Gaia, ciao. Ciao, grazie. Ciao Massimi. Avete calpestato Gianni poco fa, che mi stava chiedendo come mi arrivava. Avanti già. Ehi, Natali, dai, guarda bene come ti arrivo, sono qua al quadrato, dai, dalla BM. Ehi, già ho capito che sei in macchina, arrivi sul più di 30 qua. Fatti lo conto, e sono senza nulla, non c'ho niente, sono liscio, liscio. Ma lì c'è in zona alta. Ciao Massimiliano, intanto ti saluto, dai, continuate Gianni. Ehi, dai, stai andando via Giulio. No, ho voluto salutare a Massimiliano, visto che stavate parlando voi, ho voluto salutare a Massimiliano prima che chiudesse la radio, capisci? C'è solo quello. Va bene, dai, non c'è problema Gianni, assolutamente, ho voluto fare solo quello, ma niente di più. Avanti ancora Gianni, fai girare tu, vai. Scusa Massimiliano, se mi sono dimenticato di salutarti, dai, ciao anche a te. Riprendi Claudio. Ehi, ehi, va bene, ciao Massimino, allora dai, poi già ci sentiamo per telefono. Siamo in un piovo domani. Ripeto, c'ho appuntamento con Stefano, diciamo, toccarlo aperto, devo portare queste cose che mi servono, poi vediamo un po'. KK. Ehi, così è Giulio, dai, già va bene. Ottimo per la truppa. Ed è proprio di sì. Gli auguri di vero cuore, ecco, sono contentissimo per te che hai realizzato il tuo sogno, per cui figurati un po'. Comunque Gianni, sentiamo dopo mi stai arrivando a me, 9 pieno mi stai arrivando, la radio non c'è bisogno che ti dica niente perché va bene, per cui va bene così. Avanti ancora Gianni. Ecco, l'apparecchio che è buono, dai, microfono è normale, niente, l'apparecchio che è buono, dai, non posso dire nulla, questo apparecchio va molto bene. Sono dovuto andare da Fusaro perché mi faceva saltare il fusibile, ce l'avevo da 6,5, adesso l'ho preso da 8, vediamo un po', perché gli altri mi faceva saltare. Beh, certo che sì Gianni, se non hai abbastanza amperaggio è ovvio che il fusibile ti saltava. Hai fatto bene, dai, hai fatto bene a cambiarlo, perché così, però controlla sempre anche con la mano il calore alla radio, non ti dimenticare quello, non si sa mai, controlla sempre quello. Avanti, Natalino. Voglio un fusibile attaccato alla radio, paurosa, pauroso. E ce l'ho ancora, mi sembra, quel fusibile. Quello io ho preso quelli da 8, perché ce l'avevo da 6,5 e l'ho preso da 8, dai, adesso dovrebbe andare bene. Ricca. Io l'avevo preso quel fusibile perché c'avevo l'857 in macchina. E avevo visto l'impianto come l'aveva fatto Marco Scorpio e me l'avevo fatto uguale l'impianto, ma avevo visto i cavi grossi, i uia. Infatti era una bomba quella apparecchio, 100 watt. Quello c'era bellino, dai, era piccolino e faceva un po' di roba. Lo stampava pure, che vuole? Si hanno tante cose e poi si danno e le pentica. Ma in macchina non è più Natali? Sì che ce l'ho. Ah, lo stai mettendo? Sì, quando esco. Gara. No, io me l'ho piazzato, però ho messo la magnetica, non gli ho bucato la cappotta, oh. E io ce l'ho già bucata, attacco l'antenna e blu. Capito? C'ho quell'omologato piccolino che non serve a nulla, non so neanche, infatti non c'è mai nessuno e non lo posso provare. Cavagava. Vabbè, dai. Già andrà bene, già andrà bene. A chi spetta il Michelino? Avanti. Vai Claudio. Ehi, ehi, c'è una propagazione allucinante, dà un po' di fastidio a Natalino, però a Giulio e a Gianni. Gianni è una bomba, si revende già. Una bomba, sei sul più del 30, va. A allucinante, si dice, vabbè, quella radio cos'è, il Magnum quello? E io, 6980. Vabbè, ci hai fatti su, io, va bene, chiaro, potrebbero essere sufficienti, però se magari vai in banda laterale o sollevi la potenza, secondo me 10 amperi li devi mettere lì, 10 amperi li devi mettere. Però stai arrivando veramente bene, e ora devi bucare già, va bene, a base magnetica così ti difendi alla grande, no, non c'è problema. No, non li buco, no. Avevo intenzione di mettere una frusta nera davanti dove c'è la plafoniera lì, per fare il buco lì, ma poi ci ho ripensato. Non ho trovato quello che volevo, allora ho opzionato per la solita antenna che avevo nell'altra macchina. Lascia tutto così, cosa buchi, se poi sbagli che non metti bene le cose, ti entra l'acqua nella luce, lì fa un casino, la macchina è nuova, ma lascia perdere, già va bene. Va benissimo, io non ne ho mai bucato, io quando usavo le antenne, l'unica che avevo bucato era la Battimobile, e quella era però una macchina da battaglia e l'avevo fatta proprio a Battimobile. Però non ne ho mai bucato, sempre base magnetica e oppure sempre piccoline, insomma, per le V e le U e basta. Tutto qua. Avanti, matto giù. Ok, beh sì, in effetti è così, è un peccato, la macchina nuova va bucata così. Al limite, se proprio vuoi l'antenna fissa, puoi utilizzare quella della radio o buco dove c'è la radio già. Lì sicuramente è già bucata e allora non pregiudichi niente alla macchina, ci mancherebbe altro. Poi naturalmente vendono anche l'apparecchio per convogliare da una frequenza all'altra, cioè per quando devi utilizzare la radio. Beh, tu mi dirai, ma quella magari è dietro, è un po' sottratta, ma cosa di Naputi? Se proprio voi hai quella intenzione, dovresti fare così, senza toccare la macchina, da come è nata, Gianni, vai. Così giù, io apro leggermente il finestrino di dietro, faccio passare il filo da lì, quindi non mi dà fastidio, manco davanti, io davanti non c'ho nulla, l'impianto è fatto tutto bene, è passato sotto, fatta a regola d'arte, capito? L'impianto elettrico. E l'antenna passa in mezzo ai sedili, il filo e poi va a finire dietro, e a me non mi disturba nulla, capito? Sì, ma ho capito benissimo già, no, ma volevo intendere, se proprio tu eri interessato a bucare la macchina, non mi sembra il caso, premesso che la macchina è tua, le fai quello che credi, per carità, ci mancherebbe altro, ma se proprio volevi mettere la pista, potevi utilizzare dove c'è l'antenna della radio, togliere l'antenna della radio, comprarvi poi l'apparecchiatura per convogliare le varie RF, sia quella della radio che quella del baracchino, e andava bene lo stesso. Questo era in caso proprio, se proprio eri convinto di metterla nella macchina fissa l'antenna, invece no, va bene così comunque, va benissimo. E poi cosa stai lì, tanto sono anche, ci siamo anche poche persone, fossimo stati in tante con la macchina, magari tutti quanti avremmo optato all'antenna come una volta, ma adesso ormai questa moda è sparita, non abbiamo più quella pazienza e quella idea di fare queste cose qua. Avanti, Natali. Capo, infatti, io perché ce l'ho già così, se no me l'avrei usato come antennino qua a me, se avessi avuto una base per quell'antenna me l'avrei trasportato qua e me l'avrei usato come antennino per usare l'altro apparato in ascolto. Perché intanto in macchina questo non lo posso mettere, questo omologato che è troppo umano, il 3009, ma è troppo grande, dove me lo metto? Anche quello è vero, sì, lo so, è un bel baracchino, però è grandetto sì per la macchina, certo, dentro il cassetto non ci sarebbe nemmeno, per cui si è costretto, ho portatelo così, appeso sotto la plancia come solitamente si faceva prima, adesso non lo so. Gianni, dove l'hai fissato tu il baracchino? Sotto la plancia o nel cassetto ce l'hai? No, io ce l'ho all'asso, attaccato all'asso, con la staffa estraibile lo tolgo fuori e lo porto a casa. Eh beh, certo che sì, quello sì, ci mancherebbe altro, e vuole vedere che lo lasciassi nella macchina, così. No, sarebbe un incentivo per i delinquenti, ma non tanto per il baracchino quanto per la macchina, perché già lo sai come fanno per arrivare. fare certe cose. Va bene, avanti qua. No, già Gianni, già è abbastanza preciso, poi io l'ho visto l'impianto che si è fatto, anche se ha solo l'antenna lui, appunto non con la base magnetica, però l'impianto è fatto bene, la radio è estraibile, l'antenna è estraibile, però quando piazza tutto è un ottimo impianto, fatto a regola d'arte. KK, sì, sta arrivando fortissimo già, non è che siamo vicini, per carità, non è che ce n'è di strada, io sono da dove ero prima, sono 2,5 km, 3 km, a salire però, a salire. Da te, boh, non lo so, però, in linea d'aria evidentemente l'antenna si vede, sta arrivando fortissimo. Vabbè, sono contento che stia andando bene perché era un po' che non l'accendevo, l'ho messo con la scusa che dovevo andare a lavorare, poi vabbè, è successo quello che è successo, quindi al lavoro non sono più tornato e niente, l'ho lasciato piazzato, adesso è tutta estate, quando vado in giro non l'attacco e mi faccio un giretto. Tanto Elena sta lavorando, quindi se sono solo a casa bene finisce. È rientrata a Sassari già? Cappa, abita con me adesso. Bene, bene, bene, benissimo. Sono contento, almeno ho finito anche di stare andando e tornando. Avanti, Natalia. Sì, Cappa. Purtroppo io non so come fare a mettercelo, il mio è troppo grande. Quello piccolino, ma non so neanche se mi sente qualcuno o quello. Quando era qui non si via nulla. Lì, ma fai come ha fatto Gianni, no? Ti metti la staffa sul lato, ce l'hai il posto a fianco alle marce, dal sedile passeggero. Lo metti lì e la sera lo togli e te lo porti a casa. Così se vai a fruttare dentro il cassetto lo devi far mettere. Fino a che sei gente delinquente, non hai compreso che mi guardi nella macchina a pizzi. C'è un giro di soldi falsi e di spaccio qua che tu manco te li immagini. E allora fai buba, allora sappiglio baracchino e pensa l'altro. Vai Giulio. Ok, fate la salita. E parli quando sei a casa, con noi parli quando sei a casa, per cui va bene così, no, non c'è problema, ci mancherebbe altro. Bene, bene, bene. Va bene Gianni, ti sei messo in movimento? Sto aspettando che venga l'ora che esca la...